4 mattino. Rieccoci, Luca Telese. Oggi una giornata importante per 24 mattino, piena di notizie, ma l'ultima l'ho tenuta qui e la introduciamo con questo George Michael che raccontava l'arresto con la sirena in modo ironico e anticonvenzionale, outside. Ebbene, la Raggi inciampa sui tombini, braccata dalla magistratura, scrive il giornale, è una voce che rimbalza da due giorni, l'ha scritto prima la stampa, ieri, oggi lo scrive il giornale, gli altri sono molto, molto prudenti, ma insomma ci sarebbe un rinvio a giudizio nell'aria per Virginia Raggi, scrive Tiziana Paolotti da Roma. La procura si appresta a chiedere un rinvio a giudizio per il falso, verso l'archiviazione invece l'altra accusa, quella per l'abuso d'ufficio. Ma i discorsi stanno a zero, scrive la Palocci. Roma ha vissuto ore drammatiche, un'altra vicenda imbarazzante per i vertici pentastellati che si celano dietro un muro di silenzio. Proprio come ha fatto il presidente della Camera, Luigi Di Maio, gelato dalla pubblicazione della chat fra la Raggi e il suo ex braccio destro Raffaele Marra. Alla festa del movimento non ha speso neanche una parola per cercare di difendere l'inquilina del Campidoglio, ma è evidente che nessuna intenzione di epurarla dal movimento, almeno finché non si voterà per le politiche, perché scaricarla oggi sarebbe di fatto l'ammissione di un fallimento. Così da forcaioli i grillini si sono trasformati in baluardi del garantismo. Ma la partita dal punto di vista della giustizia per Virginia si gioca, scrive il giornale, proprio in queste ore. I PM che indagano sulle nomine fatte dalla sindaca stanno completando l'esame delle memorie dei difensori. Sotto i riflettori quella di Salvatore Romeo, quale responsabile della sua segreteria politica, che beneficiò di un aumento di stipendio da 39.000 euro annui come dipendente del dipartimento partecipate a 110.000 euro l'anno, poi ridotti a 93.000 dopo i rilievi dell'ANAC. E si indaga anche su quella poi revocata di Renato Marra, fratello dell'ex capo del personale Raffaele, che da vice capo della polizia municipale sarebbe passato alla direzione turismo del Campidoglio. Allora, finché non c'è un rinvio a giudizio sono voci, però siccome sono voci insistenti, ripetute e qualcosa frigge in pentola, è giusto darle. Allora, buongiorno a Emanuele Fiano, buongiorno. Buongiorno. Oggi ritorna questa legge in discussione, c'è grande polemica, tanti interventi sui giornali. Io volevo fare proprio una domanda perché ho letto, non so se ha fatto in tempo a guardarlo stamattina, un fondo di Stenio Solinas sul giornale che dice, diciamo così, l'apologia, i reati di cui parla la sua legge sono sostanzialmente in Italia accettati addirittura dal dopoguerra, quando c'era recente la guerra civile, la guerra antifascista, la liberazione. Perché quest'urgenza proprio ora, se coloro che avevano combattuto il fascismo con il mitra in pugno non la sentirono in questi termini nel 1945? Per la verità queste notizie sono inesatte. Nel 1952 furono introdotti nel nostro codice reati di apologia e propaganda di ideologia fascista, quindi direi che questa prima notizia è sostanzialmente sbagliata in attuazione in quel caso della Costituzione. In secondo luogo ce n'è bisogno perché il contesto è completamente cambiato. Cominciamo a dire che in un paese che ha avuto una vicenda della Seconda Guerra Mondiale legata alla nostra, diciamo così, anche se con accenti più terribilmente drammatici come la Germania, esistono divieti durissimi all'apologia del nazismo e non c'è mai stato nessuno scandalo, e quella democrazia, quella tedesca post seconda guerra mondiale, è cresciuta in piena salute nel rispetto della libertà di ognuno. In secondo luogo, questa legge non colpisce la libertà di espressione e di opinione così come è regolamentata in Italia, per fortuna, dall'articolo 21, quindi questa legge non andrà a colpire nessuno che si definisca personalmente fascista, mussoliniano, a casa sua abbia un gusto di... Non si potrà comprare o vendere un gadget, soprattutto venderlo. Nel caso che rientri nel reato di propaganda, non nel caso che uno faccia collezione di francobolli con la testa della buonanima. Qual è il confine? Cioè il vino Dux, secondo me questo è interessante perché essendo lei l'estensore della legge può precisare meglio i confini di come dovrebbe essere interpretata. Il vino Dux è un gadget che fa propaganda al fascismo? È domanda complicata. Ci sono casi in cui questo è oggetto di propaganda, ci sono vetrine in Italia in cui viene propagandata l'ideologia fascista e in più c'è la bottiglia con l'effigie di Benito Mussolini o di Hitler, e altri casi in cui è un esercizio di collezione privata. Rifacendo l'esempio della Germania, in Germania è reato vendere oggetti con quelle effigie e nessuno se ne scandalizza. Ripeto, il tema della legge è la propaganda, non l'opinione, bisogna esercitare l'atto di propaganda. Lei dice delle cose molto sensate, però il paragone con la Germania diciamo in qualche modo è fuorviante, ci sono tante cose che sono giuste in Germania e non lo sono qui, quindi dobbiamo chiederci di una legge se qui. Per esempio Solinas faceva l'esempio del portachiavi con il fascio littorio o con l'effigie di Mussolini. Quello è un'opinione privata o una propaganda? Guardi, c'è un emendamento che chiarirà il testo. Averlo in tasca, il portachiavi, non è certo un esercizio di propaganda. Il punto è, per esempio, organizzare una fiera di questi oggetti col chiaro intento di fare propaganda a quel regime o di fare apologia di quel regime. La differenza con la legge Scelba, che lei sa già esiste dal 1952, che individuava lei questi reati di apologia e propaganda, è che quella legge risale solo al tentativo di chi lo faccia di ricostituire e riorganizzare il partito fascista, cosa che era giusta negli anni 50 o 60, ma che oggi non pensano più coloro che invece, come è successo anche quest'estate, vogliono propagandare o difendere gli errori di quel regime. Però lei sta citando il caso di quest'estate del famoso Bagnino che faceva dei grotteschi e ridicoli discorsi dall'alto della sua torretta, ma quel diciamo gestore di quel bagno era indagabile ed è stato indagato anche ai sensi della legge Mancino, no? Non serve un'altra legge? No, perché per la verità a quello che mi risulta a me è stato indagato ai sensi della legge Scelba, ma riparliamone quando arriva per vedere la sentenza, perché fino ad oggi nel nostro paese le sentenze riguardanti l'apologia e l'ideologia fascista sono arrivate a condanna solo nel caso in cui il magistrato abbia riconosciuto la volontà di ricostituire il partito fascista, cosa che sarà successa una volta su mille casi. Fino ad oggi noi non abbiamo avuto, anche in casi molto gravi di palese propaganda del regime fascista, non abbiamo avuto condanne perché i magistrati legittimamente sono risaliti al punto della Costituzione, cioè al divieto di riorganizzazione del partito fascista. La legge che noi proponiamo non individua nella volontà di ricostituzione del partito fascista l'unico vulnus, diciamo, al nostro ordinamento, ma anche la semplice propaganda. Allora c'è un ascoltatore, Tommaso Roma, che vuole intervenire, però le cito una frase famosa di Paglietta, che proprio negli anni 70, quando ci fu la grande campagna di opinione che diceva scioglimento del movimento sociale, Paglietta, deputato e dirigente del Partito Comunista, combattente della guerra antifascista, diceva: non si possono sciogliere gli elettori per legge. E in qualche modo era una sorta di certificazione di un senso di riconoscimento, cioè noi non abbiamo ovviamente niente a che vedere con i fascisti, ma accettiamo l'idea che esistano, che abbiano le loro idee, addirittura che possono votare un partito neofascista, il Movimento Sociale. Non è d'accordo con questo, diciamo, lascito della storia? Ma intanto bisogna sempre stare attenti a fare paragoni del passato, perché le cose si sono evolute. Una pagina di Facebook abbastanza famosa in un certo pubblico, che si chiamava, perché è stata chiusa, Camerati Italiani, è stata chiusa da Facebook, non dalla magistratura italiana, propagandava i comizi di Goebbels, li faceva ascoltare, con la spiegazione che le teorie in quel discorso, che erano teorie per impedire la mescolanza tra la razza bianca e la razza africana e per addebitare alla cosiddetta, diciamo la parola giusta, al popolo ebraico le ragioni, le colpe della crisi economica e finanziaria che dal 29 in poi aveva colpito l'Occidente, e gli estensori di quella pagina spiegavano ai propri lettori, 45.000 lettori, che quella teoria era esattamente la teoria che serviva per spiegare le ragioni di oggi della crisi economica. Il razzismo di oggi motivato con il Goebbels di ieri. molto chiaro. Sentiamo Tommaso da Roma, cosa ha da dirci? Tanti messaggi, ricordo soltanto 349-238-6666, 800-24-0024, siamo in diretta con Emanuele Fiano, parlamentare del Partito Democratico, che ha presentato questa proposta di legge che fa discutere l'Italia. Buongiorno Tommaso. Buongiorno Luca Telese, buongiorno Emanuele Fiano. Ho una domanda subito secca per l'onorevole. Visto che il gadget non dovrebbe essere, da quello che ha detto, a meno che non si usa per farlo propaganda, vietato, se l'onorevole mi incontra e vede che ho la mia croce celtica o il fascio vittorio o il fascio repubblicano al collo, cosa fa? Mi denuncia oppure mi passa avanti e fa finta di nulla? Questa è la prima domanda. Secondo, ma perché non si domandano una cosa? Se in 70 anni, in 80 anni non sono riusciti a fare nulla per far dimenticare, anzi, a quello che dice lui c'è un rigurgito, termine proprio spregevole, è aumentata la voglia di fascismo in Italia. Perché? La domanda che non si fanno loro è: che abbiamo fatto? Che cosa non abbiamo fatto? Bene, forse non è una domanda che debbono farsi, devono decidere se regolamentare o no, se vietare o meno, però la primissima domanda è sicuramente interessante. Secondo quello che ho capito, quello che ha detto Fiano, se passa un poliziotto e vede qualcuno con una celtica, un fascio al collo, non fa niente perché non è una propaganda, o no? Sì, mentre invece se nel corso di una manifestazione vengono ostentate bandiere con le svastiche o altri gesti simbolici, che peraltro citava già in parte la legge Scelba, ma nel chiaro, all'interno chiaramente di una manifestazione di stampo neofascista o neonazista, e quindi quei simboli sono propedeutici a quell'atto di propaganda, la cosa è molto diversa. Come dire, la caratterizzazione personale delle proprie idee non è un atto di propaganda. Farlo per propagandare un'idea o per difendere un'idea che noi, che la storia e anche la Repubblica Italiana ha condannato, è un atto di apologia o di propaganda. Allora, un'altra domanda simile, ma è interessante perché un'altra declinazione dell'ultima, se Fiano riesce a rispondere al volo, perché so che anche deve correre a prendere un aereo. Cosa farebbe Fiano di Predappio, cioè di tutti quei negozi, quel complesso, diciamo, economico-industriale che c'è intorno alla località nativa di Mussolini? Io accoglierei la proposta del sindaco di Predappio, che ha proposto, al posto di quei negozi, l'istituzione di un museo storico anche in quella città, che ovviamente ha un legame con la figura di Mussolini, un museo di spiegazione di cosa è stato il fascismo, di tutto il percorso della sua storia, di ciò che ha prodotto, causato, di ciò di cui è colpevole, e in generale però della storia. Esattamente, lei dice che non dobbiamo sempre rapportarci ad altri paesi, ma in Germania, lo dico perché quel regime era esattamente coevo di quello tedesco, ci sono esempi di musei legati alla storia del nazismo che insegnano alle nuove generazioni o anche a quelle vecchie esattamente tutto quello che è successo. Raccontare, spiegare, anche introdursi nelle contraddizioni di un pezzo di storia è giusto, senza infingimento. L'ultimo esempio, Luciano Violante ha detto quell'obelisco al Foro Italico con scritto Mussolini Dux, io lo scalpellerei perché non potrebbe esistere in Germania un obelisco con scritto Heil Hitler. Lei che ne pensa? Ma io sono sicuramente contrario all'abbattimento di monumenti. No, lui diceva solo di abbattere la scritta con riferimento a Mussolini Dux. Ma l'abrasione della scritta è una cosa che è stata fatta in Italia in tanti posti. L'abrasione della sola scritta è giusta. È giusta. Bene, grazie. Pubblicità. State ascoltando un programma offerto da 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Mattino. Rieccoci in diretta, Luca Telese, 349-238-6666, 800-24-0024 per chiamare in questo momento, anche perché adesso sta entrando in campo il gattone. Oscar Giannino, sei lì, abbiamo sentito il tuo ruggito. Oscar? Un gattino. Che no, gattino Lucia. Sembrava? Pico, gattino. Una tigre dai denti a sciabola. Fammi. Beh, quindi un animale estinto, beh, può essere, sì, in effetti. Ormai la mia età mi porta. E beh, la tigre senti sciabola. Come neopadre non ne sbagli una. Estinto, no, beh, scherzi. Se io sbaglio di fronte a una richiesta di tipo zoologico di un dei dinosauro, miei figli, no? Vengo crocifisso praticamente. Senti, fammi esordire con due solidarietà. La prima solidarietà ai romani, perché stamattina la città viene bloccata da uno sciopero di 4 ore dei sindacati contro il concordato in continuità per l'ATAC. Evidentemente i sindacati, questa volta non i sindacatini solo, tutti, anche i primis, i confederali, preferivano il default, perché io alternative proposte da loro al default, perché loro sono corresponsabili della politica, non ne ho visti. Solidarietà ai romani, perché dopo la pioggia, dopo gli disservizi, eccetera, l'ennesima giornata di blocco. E poi anche ai palermitani, visto che poi ci saranno i palermitani pure? Sì, perché ieri ho letto che l'assessore al bilancio della giunta Orlando, che almeno però il passo avanti c'è, perché dà conto delle cifre della vita pubblica a Palermo per quello che lo riguarda, ha informato che il 91% dei ristoranti palermitani nel 2016 non ha pagato la tassa dei rifiuti e che all'assessorato risultano almeno 18.000 immobili non dichiarati. 18.000. Allora, solidarietà ai palermitani che le tasse le pagano e che non sono in case abusive. Ah, ecco. E viva, viva, lo dico, sottolineo 3 volte, viva l'assessore, la giunta, il sindaco, che iniziano a tirare fuori i numeri e non se ne vergognano, ma li denunciano pubblicamente del fatto che la legalità si costruisce anche dal basso. Non c'è solo il cattivo esempio della politica, dall'alto, delle imprese a volte colluse. Cari miei, in una città in cui il 91% dei ristoranti non paga le tasse sui rifiuti, l'idea di legalità è un'idea presuntiva, una fiction, la proiezione di un'ombra cinese su un muro. Quindi solidarietà anche invece a quel 9% di ristoratori di Palermo che le tasse sui rifiuti le pagano. Ecco, io vorrei che si parlasse un pochino di più di queste cose nella politica italiana, e invece siamo qui, oggi c'è l'incontro MDP con tutto il resto della sinistra. Tu che, no, che bello, c'era un pezzo esilarante di Alessandro De Angelis sulla delegazione di 10 persone diciamo il campo progressista di Pisapia, che aveva incontrato una delegazione di MDP in vista di questo incontro, e dicevano la battuta cattiva era, beh, sono 10 quelli di campo progressista, allora sono tutti. Sì, abbiamo però, era una battuta cattiva ovviamente, abbiamo 2 cose. Lara Ricciatti, deputata di SEL, ora di MDP, del gruppo parlamentare, ma credo sia più vicino al campo progressista, che ci racconta la sua storia. Oggi ha detto: ero precaria, tornerò precaria, parlando del vitalizio. Però solo un attimo di attesa, perché c'è una telefonata di Paolo da Padova su Fiano, che ha parlato poco fa. Paolo, sì, buongiorno. Ecco, volevo dire questo. Facciamo un attimo una premessa, perché se non facciamo una premessa, un attimo. Ora, ho una certezza, quella di vivere nel paese più bello del mondo, però mi sembra sia amministrato da un'associazione mafiosa legalizzata. Arrivo al dunque. 1. Non vedo che guerra ci sia da fare al saluto romano, che è il saluto più igienico che ci sia. Ah, il saluto romano esiste dai tempi di Giulio Cesare. Sì, è vero, no? Dopo un'altra cosa, hanno paura di perdere potere e vogliono fare la ius sori, dare il voto agli extracomunitari residenti in Italia. Bene. Questa qua è pura, ovvio, scusi, ma guardi, mi sembra pura mafia. Lei ha sentito la mia opinione, abbiamo evidentemente idee diverse sul fascismo, ma io sono contro questa idea del divieto. Ho intervistato Fiano, ma voglio sentire che cosa pensa Giannino. No, io brevissimamente penso che la storia italiana saggiamente fu ispirata nei suoi sviluppi successivi dai costituenti, che furono molto, tra virgolette, prudenti. C'è una disposizione transitoria, c'è una legge venuta negli anni successivi che rigorosamente l'applica, ma esclusivamente sulla fattispecie precisa identificata dalla disposizione transitoria. Togliatti, ce lo ricordiamo tutti, quando è stato di fare l'amnistia la fece, e deluse gli azionisti che volevano il repulisti per decenni, e rifondare la Repubblica sul repulisti. Perché? Perché era una questione di saggezza la misura, era una questione di saggezza, visto che l'Italia era la patria. internazionale, sottolineiamolo quattro volte, del fascismo mondiale. Allora, io penso che se per tanti decenni quella prudenza e misura, sia pure nella chiarezza, no, al fascismo, come ricostituzione di un movimento politico e di un regime politico, ecco, io credo che avesse un fondamento. Capisco, onorevole Fiano, che conosco la sua famiglia, è ovvio che io solidarizzo per chiunque abbia avuto vittime della Shoah, cioè non è questo il punto per me. Credo che il rimettere mano con una legge nuova alla propaganda e non alla ricostruzione di un movimento inevitabilmente ci riporta, come vedi, indietro nel dibattito, perché tutti gli ascoltatori che la pensano in un certo modo dicono: ci volete discriminare, che bisogno c'è, avete paura, riproponete il muro contro muro, perché, da come l'ho capita io, inevitabilmente la legge scivolerà nella discrezionalità dell'interpretazione di ogni PM e di ogni giudice, perché di fronte alla domanda secca che gli hai fatto, l'etichetta di un vino, la risposta è stata dipende. Ecco, anche il ciondolo dipende. Mi fermo lì, perché non vorrei apparire né un difensore del regime fascista, perché sono assolutamente liberale, liberista e democratico, ma vedo che c'è un rischio che deriva da un'incertezza politica. Quando si deve riaffermare la propria identità, muro contro muro, legge penale alla mano, è l'espressione di una insicurezza di fondo, non del vivere civile, di sé contro gli altri. Bene, allora Lara Ricciatti ha sicuramente letto, Oscar, questa paginata di Repubblica che racconta il vitalizio, scatta con proprio fra tre giorni ci sarà il vitalizio per i parlamentari che hanno fatto una legislatura completa, quasi completa, cioè questa scadenza. Allora Lara Ricciatti ha raccontato. Naturalmente devi sottolineare, per evitare che ci scrivano le associazioni ex parlamentari, non è più il vecchio vitalizio, è quello, no, figlio della riforma del 2013, esatto. col contributivo. E proprio su questo volevo sentire la Ricciatti, perché lei ha detto: ma io non andrò a fare la miliardaria, prenderò forse, credo, 500 euro o 900 euro, quant'è il conto esatto che avete fatto? Buongiorno. Innanzitutto buongiorno, il conto non ce l'ho. Io penso una cosa, che chi ha finalità e fa politica si deve preoccupare di un altro dramma, e cioè non è la pensione che prenderà un parlamentare, ma è la condizione di vita odierna dei miei coetanei. E siccome io vengo da un'esperienza, diciamo, di precariato, io penso che chi fa politica oggi e da 30 anni deve preoccuparsi di sconfiggere questa piaga qua, che è quella del precariato. Penso che chi fa politica oggi dalla mia età deve porsi il tema di come i miei coetanei andranno in pensione, visto che non firmano mai e poi mai dei contratti a tempo indeterminato e quindi, diciamo, non sono nelle condizioni di versare i contributi. Cioè, a una persona di 32 anni che fa politica oggi, diciamo, ma ha detto che tornerà precaria? Lei ha già fatto un pronostico, ha detto tornerò precaria? Guardi, io prima di diventare parlamentare ero una precaria, quindi diciamo che siccome non considero la politica una professione e quindi, diciamo, prima o poi smetterò anch'io di, appunto, esercitare il ruolo di parlamentare, in quel momento io andrò ad aggiornare il mio curriculum e ovviamente ripartirò da una condizione di precariato. Allora, non so se Oscar vuole chiedere qualcosa, ma io volevo prendere spunto da questa vicenda. Posso permettermi personalmente, individualmente, alla parlamentare, per le parole che ha pronunciato, per la sua opinione e convinzione di fondo, voglio applaudirla. Primo, perché dice il mandato non è per sempre e chiunque può vedere quanti leader politici invece la pensa in maniera diversa. Secondo, perché dice la mia priorità è pensare a chi invece prima è piuttosto che me. Ecco, in questo spirito gente come me si è beccata gli insulti per anni da chi difende i vecchi vitalizi, non vuole il ricalcolo, perché non condivide il fatto che il mandato parlamentare è fatto innanzitutto per pensare a soluzioni a chi sta peggio. Io applaudo, non condivido le sue idee politiche, ma non c'entra niente. Applaudo quello che ho sentito, perché è il fondamento di quello che secondo me è un vero spirito di servizio politico. Ecco, ma io voglio sentire sia la Ricciatti sia te su questo tema, che secondo me, Oscar, conosciamo bene le dinamiche della politica, no? Io credo che il vitalizio in questa forma contributiva sia da difendere, cioè nel senso che non credo sia uno scandalo se uno a 65 anni prende 1000 euro perché ha fatto il parlamentare, nel senso che è una piccola forma di liquidazione, non eccessiva, che paragonata alle grandi liquidazioni è quasi nulla. No, nel no. senso è uno che fa il parlamentare bene, prendi un avvocato che chiude il suo studio per 5 anni e poi riparte da zero, è normale che possa avere un sostegno. Distinguiamo sempre, come è giusto, l'assegno frutto della riforma del 2013 che entra in vigore con questa legislatura, di cui stiamo parlando appunto nel caso della parlamentare che è collegata con noi, dal vecchio sistema a cui sono stati posti dei limiti e di cui si tenta invano, io lo propongo da tempo, lo propongono in minoranza alcuni del PD come Richetti e così via, il ricalcolo contributivo, che invece ha tutt'altra importanza e rilevanza dal punto di vista dell'assegno finanziario. Però in questo caso la parlamentare, e io la capisco anche in questo e condivido, sa bene, e per questo dice non posso dimenticarmi di chi sta peggio, che a quelle 600 euro, come dici tu, comunque ci è arrivata con pochi anni e pochi mesi di contributi sulla sua retribuzione parlamentare. La media degli italiani che fatica ad arrivare per una vita contributiva discontinua grazie al precariato che abbiamo rifilato alle generazioni giovanili per tutelare gli over 50, gli over 60 anni, ecco, all'assegno sociale non riesce ad arrivarci dopo decenni di contributi. Ecco, la parlamentare ha parlato perché lo sa e io quasi mi intenerisco di fronte al fatto che ci sia gente che eletta non si dimentica di questa che è la realtà italiana e che so che sta a cuore Luca come sta a cuore a me. Una pausa rapidissima sulla pubblicità e per la pubblicità e sentiamo la Ricciatti. Mattino. Rieccoci in onda parlando di vitalizi, ma anche non solo di legge Fiano, ma anche non solo della tremenda sindrome che si è aperta con ripetuti stupri, ancora ieri uno a Roma. Lara Ricciatti, la replica a Giannino. Guardi, il vero scandalo non è la pensione di un parlamentare che la matura in così breve tempo. Il vero scandalo è che in questo paese ci sono persone che hanno versato tanti e tanti anni di contributi e prenderanno la stessa pensione, diciamo, che matura un parlamentare in 5 mesi. Le racconto un paradosso, cioè la mia pensione sarà esattamente identica di quella di mia mamma che ha lavorato una vita facendo l'operaio ed è una vittima delle Fornero. E allora questa è una delle storture. Però lei non la paese. Prenderà subito, ovviamente, no? Questo spieghiamolo. La prenderà al raggiungimento dell'età previdenziale. Però non è possibile che in questo paese ci siano persone che hanno lavorato una vita e prenderanno una. E prenderanno quanto una prende sua madre? Di 600 euro. Questa è un'offesa alla dignità di chi ha lavorato una vita. Lei capisce che. Poi ovviamente si va ad alimentare questo scollamento profondo che c'è in maniera legittima le persone e la politica. E allora io penso che a causa di questo scollamento ci sono anche queste azioni e queste storture. La politica non deve interessarsi della pensione che prenderanno i parlamentari, deve interessarsi delle pensioni minime, delle persone che non ci sono. La politica significa... Siamo su un treno, quindi c'è molta difficoltà, ma il concetto è chiaro. Volevo sentire Silvano, che vuole intervenire nel nostro dibattito. Sempre 800 24 00 24 per chiamare, sempre 349 238 6666 per i vostri messaggi. Prego Silvano. Sì, buongiorno. Sulla legge Fiano io dico che mio nonno, nel periodo fascista, è stato ucciso dai fascisti di botte. La mia famiglia è sempre stata di sinistra, i miei zii hanno combattuto nelle guerre di Russia, Albania, Grecia, eccetera, no? E sempre l'ideale di sinistra, ma attualmente la sinistra si sta tirando la zappa sui piedi perché tutte le cose che fa le sta facendo male, è troppo leggera, non fa rispettare le leggi e addirittura la magistratura di sinistra cosa fa? Lascia liberi i delinquenti. Allora la gente non ne può più, si stufa. Cioè, questa non è una sinistra, questa è una camuffatura della ex DC. Giannino, tra l'altro ti arrivano apprezzamenti. Bravo Oscar sulla proposta di Fiano, ottima la sua analisi. Ma io non, il nostro ascoltatore ha un'idea, la sinistra paga il suo errore, eccetera. No, non credo che sia né meccanico né riconducibile il ciclo politico ai motivi che spingono Fiano e altri nel PD a questo disegno di legge. Io credo che chi lo propone identifichi dal suo punto di vista con una sincera preoccupazione i tratti di razzismo, di intolleranza, di misoneismo, di sciovinismo che si sono fatti molto rilevanti nella politica italiana e sono pesanti tanto a destra che a sinistra, posso permettermi di dirlo, io lo penso così, con la riconduzione alla matrice unica propaganda fascista. Ecco, io per esempio su questo non sono d'accordo, perché vedo reazioni durissime di pregiudizio sugli immigrati eccetera eccetera diffuse in maniera trasversale nel dibattito politico italiano. Ecco, io credo che ci sia più un fenomeno di questo tipo che spiega la necessità dal punto di vista loro di un ritorno a dire la propaganda di questi valori è puro fascismo. Certo, il simbolo del fascismo è il simbolo del fascismo, non è la falce martello, però quello che vediamo, l'eccesso di quello che vediamo in social tutti i giorni, Luca, davvero secondo te si può ricondurre sì o no alla rinascita di un movimento fascista inteso come partito fascista in quanto tale da inquadrare una nuova legge penale? No, ma su questo siamo assolutamente d'accordo. Fra l'altro c'è un precedente storico: nel 1973 fu disciolta un'organizzazione, Ordine Nuovo, allora uno dei leader era Pino Rauti, fu disciolta perché in quel movimento si ravvedeva la ricostituzione di un partito fascista che si richiamava Idee Totalitarie del Ventennio, non nel movimento sociale. Faccio allora un ulteriore esempio. Ieri sì, cronaca, Casa Pound a Roma ieri occupa nuove case popolari dell'Ater e dice, sa che c'è tutta la nuova polemica per dire adesso le sgombriamo, c'è l'accordo, Minniti, sindaci, anche la Raggi si è incontrata su questo, però le rioccupa apposta alle case popolari a Roma e dice per aprire solo una mensa per gli italiani. Ecco, ma avessimo ancora Fiano, io direi che cosa fa in quel caso? È propaganda fascista? Ecco, ma allora certo, però propaganda di un movimento neofascista, però ricada giusto su, ma tutti infatti quelli che dicono solo per gli italiani e ce ne sono da tutte le parti politiche oramai. E attenzione, è una cosa che non funziona secondo me. Un altro ascoltatore, Alberto. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì. E grazie per avermi dato la possibilità di intervenire. Vada, vada, che i minuti corrono. Allora, ascolti, il problema che io voglio affrontare con lei molto velocemente, ma poi sarà necessario, se voi riterrete opportuno, un incontro, è come risolvere il problema delle ingiustizie pensionistiche tra vitalizi, cittadini, lavoratori in Italia. Oggi i contributi pensionistici si pagano in base al lavoro. Ora, se un ragazzo comincia a 30 anni, se quando è fortunato a trovare un posto di lavoro come precariato, e mi dice come potrà mai avere il tempo necessario per costruirsi una pensione con qualsiasi forma di contributo? Bellissima domanda, Oscar, e questo è il pane tuo. Io ho una risposta secca che però è minoritaria. Io da tempo sostengo... Tu sei contrario alla minima, alla pensione minima d'ufficio. La pensione minima c'è in ogni ordinamento, quindi figurati, no, anzi la nostra... No, quella che si dice per i giovani, figurata, 600 euro. No, io sono contraria alla mancia che stanno promettendo ai giovani precari oggi, e gli hanno detto tra 20 anni l'attuale governo vi promette che vi alziamo un pochino da 500 a 680 euro la pensione al mese. È una mancia elettorale, perché io mi occuperei intanto di cambiare la continuità, la solidità del loro lavoro, della loro formazione di qui a 20 anni. Questo, sono contrario a quella roba lì. Però la mia risposta al nostro ascoltatore è questa: mentre nel nostro paese non si può differenziare l'aliquota fiscale per età o per sesso, perché non si può, si può per i contributi, perché i contributi sono in cambio di una natura controprestazionale. Io pago i contributi sulla pensione per poi avere la pensione. Allora, da sempre io penso che si potrebbe, per equità intergenerazionale, far pagare a chi ha minore durata contributiva, ha avuto lavori meno lunghi e meno continuativi, un'aliquota più bassa che poi si alza nel tempo fino a diventare, nel totale che pago nell'arco della mia vita contributiva di Oscar Giannino, resta uguale, lo Stato non ci perde niente, quindi io avrò versato lo stesso ammontare, ma pago meno all'inizio, più alla fine, così i lavoratori più anziani e che hanno lavorato di più e più continuativamente danno anche un concreto simbolico, ma non solo simbolico, finanziario, aiuto all'occupabilità e alla sostenibilità delle future pensioni di chi abbiamo preso schiaffi, cioè i più giovani. Questa è la mia proposta, costituzionalmente si può fare, i sindacati sono contrari perché significherebbe dire ai loro iscritti più anziani voi dovete pagare un po' di più per far pagare un po' di meno. Non un bonus a tempo come quello che il governo farà, ma una misura strutturale, universale, per sempre. Mi sembra la soluzione migliore. E allora salutiamo tutti quanti. In qualche modo qualcuno ci ha dato uno spunto. Se Oscar è il gatto, io potrei essere il cane. Cani e gatti, ci vediamo domani.